thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, ciao a tutti. Vorremmo farvi partecipi di alcune riflessioni che abbiamo fatto sulla situazione in Grecia, perché quello che succede in Grecia l'abbiamo ritenuto e lo riteniamo esemplare. Di fatto noi, come abitudine o comunque pratica politica femminista, siamo partite da situazioni che ci sono vicine e che fanno parte del nostro sentire. E abbiamo letto diversi articoli, già li avevamo letti negli anni passati, comunque li abbiamo messi insieme, su un problema particolare in questo contesto di crisi, tra virgolette, greca, e riguarda la prostituzione, cioè la crisi greca, ci dicono gli articoli, spinge le donne alla prostituzione. Il primo che abbiamo preso è di Lucciole Online, cioè delle Lucciole di Pordenone, che praticamente sono un gruppo che si occupa da tantissimo tempo dei diritti delle prostitute, comunque del problema della prostituzione, e sul loro blog c'è un articolo che è ancora del 2012 e che dice: c'è un aspetto della crisi greca che non si vede a occhio nudo, è il dramma della prostituzione. Questo chiaramente è un articolo preso dai media mainstream, questi sono tutti collage di quello che dicono i media mainstream su questo problema. La prostituzione è aumentata del 180% nell'arco degli ultimi 2 anni. Qui siamo nel 2012. I centri di ricerca del paese lanciano l'allarme da mesi senza essere ascoltati e l'OSCE denuncia l'incremento della tratta degli uomini dal sud d'Europa. Dice: c'è un effetto collaterale della crisi ellenica che non si vede ma esiste. In Grecia tutti lo sanno e fanno finta di no. L'austerity ha provocato una ripresa tanto repentina quanto intensa della prostituzione. Non esistono dati ufficiali del Ministero Ellenico della Salute, eppure ci sono quelli delle varie organizzazioni non governative o parastatali, come l'ECHE, che dice, ha pubblicato uno studio che parla appunto di questa percentuale di prostituzione che si è elevata tantissimo. In Grecia le donne, le prostitute che sono diventate così tante, sono chiamate, spiega Lecche, le figlie della crisi. Si tratta per lo più di ragazze comprese fra i 18 e i 35 anni che hanno perso il lavoro negli ultimi 3 anni e che, pur di continuare a guadagnare qualcosa, hanno deciso di vendere il loro corpo. No, sono disposte anche a viaggiare per esercitare questo lavoro. C'è chi lo fa di propria volontà e chi invece entra nel giro della tratta, un dramma nel dramma. No? Allora, questo appunto, dicevamo, è del 2012, anzi c'è una nota che dice: ma non bisogna pensare che sia solo una questione meramente femminile, è in aumento anche la prostituzione maschile. Dopodiché abbiamo un articolo del maggio del 2013, un anno dopo, e che riguarda un'inchiesta del New York Times. Prostituirsi per sopravvivere nell'inferno della Grecia, la sconvolgente inchiesta del New York Times. Poi fa sorridere, se non di peggio, il fatto che chi provoca tutto questo poi dica sopravvivere nell'inferno della Grecia, sconvolgente inchiesta del New York Times. Va bene, Passiamo oltre. No, dice: la disoccupazione abbassa l'età delle prostitute e abbassa i prezzi. Nella disastrata Grecia, giovanissime donne sono costrette a scendere sul marciapiede per pochi euro. E viene riportata l'intervista a una giovane prostituta locale che ha raccontato al blog Lens, sempre del New York Times, la sua drammatica storia. Disoccupata da tempo, è arrivata ad offrire prestazioni sessuali anche a 5 euro, cioè la cifra necessaria per mangiare un panino. A parte il fatto che poi l'intervista e comunque l'inchiesta scivola sul fatto che con questi soldi poi prendono, si drogano, prendono una specie di metanfetamina, no, ribattezzata la cocaina dei poveri, quindi tralasciamo tutte queste cose a margine che sono veramente penose. Però i dati sono questi. Dopodiché l'ultimo articolo è del luglio di quest'anno, sempre dai media mainstream, e dice: Grecia, con la povertà un aumento drammatico della prostituzione. Oggi come oggi, quasi un terzo dei circa 11 milioni di greci vive al di sotto della soglia di povertà e le donne e i bambini sono i soggetti più vulnerabili, che risentono maggiormente delle misure di austerità volute dai creditori internazionali in cambio del salvataggio del paese. L'enorme tasso di disoccupazione, che ha superato il 25%, ha indotto l'anno scorso più di 18.000 donne, in crescita rispetto alle 17.000 nel 2012, a prostituirsi. Una nota a margine riguardo la situazione, cioè la legge sulla prostituzione che c'è in Grecia, no? Tanto per farvi capire il contesto. Perché in Grecia prostituirsi per strada è illegale, però non lo è nei bordelli, chiamiamoli così, nelle case chiuse, che tuttavia le donne che insomma lavorano lì dentro hanno bisogno di licenze speciali. Quindi le donne ufficialmente registrate come prostitute sono soltanto 1000, sono molto poche, no? Perché la legge prevede tutta una serie di requisiti, mentre quello che succede è ben altro. Questo ci ha colpito, che in Grecia ci siano le cosiddette case chiuse. Allora, questo che cosa ci ha portato, su cosa ci ha portato a riflettere? Non tanto, cioè abbiamo evitato accuratamente, cioè perché è assolutamente contrario a tutto quello che pensiamo, trattare la prostituzione come un dramma sociale, fra virgolette. Il dramma sociale è la povertà, sono due cose completamente diverse. Tant'è vero che noi siamo convinte che ognuna sia libera di vendere il proprio corpo come crede, dove crede, come meglio desidera, perché non vediamo perché sia più grave vendere una parte del proprio corpo come una parte sessuale che non vendere le braccia, vendere la mente, che per esempio vendere la mente o mettersi al servizio del potere ci sembra estremamente più grave. L'abbiamo detto tante volte, le prostitute sono nostre sorelle, le poliziotte sono nostre nemiche, no? Perché stanno dall'altra parte della barricata, quindi ci sono tanti modi di vendere chi, che e che cosa, e non sono tutti uguali. Quindi il giudizio morale su questa cosa è sulla prostituzione lontanissimo da noi. Però questo ci ha fatto venire in mente che il cambiamento di modello economico porta a un drastico cambiamento anche della morale, quella cosiddetta morale, dei valori che informano la società e della percezione che le persone hanno di questa scala di valori. Per cui quello che in un contesto sociale, in un modello socio-economico può essere demonizzato, in un altro modello socio-economico può essere sdoganato. Il neoliberismo ha ridotto tutto a merce, addirittura gli affetti, addirittura le relazioni interpersonali, e non vediamo nulla di eccezionale nel fatto che una società improntata a un impoverimento molto forte non sia poi aperta a un certo tipo di vendita personale. Oltretutto c'è anche un discorso a margine, che queste persone, in particolare queste donne, che hanno fanno la scelta, è una scelta di necessità, ma è una scelta comunque di superare anche tutta una serie, tutta una scala di valori che era esistente. La Chiesa ortodossa in Grecia aveva un peso notevole, no? Per cui fare questo salto di qualità è lo specchio del salto di qualità che ha fatto, della reimpostazione che il neoliberismo sta facendo del sociale. Certo, è una reimpostazione di stampo vittoriano, cioè i poveri sono poveri per colpa loro. Addirittura nell'Inghilterra vittoriana fare la prostituta era un'espiazione di colpa, cioè evidentemente la donna aveva fatto qualcosa che non andava, e il fatto di finire sul marciapiede, rispetto ai valori, alla scala di valori dominante, e il fatto di finire, tra virgolette, sul marciapiede era il modo che lei aveva di espiare le proprie colpe. Stavamo dicendo della scala di valori vittoriana e in effetti il neoliberismo imposta tutta una nuova scala di valori, no? Per cui appunto la povertà è una colpa, e se qualcuno finisce sul marciapiede, o se qualcuno non ha da mangiare, non riesce a come si dice, sfangare il pranzo con la cena, vuol dire che evidentemente non si è saputo valorizzare, è colpa sua, e dovrebbe fare uno sforzo per adeguarsi alle richieste di questa società. Allora, prima noi abbiamo detto che abbiamo fatto una riflessione nello specifico riguardo alla crisi, no? Perché abbiamo detto nella crisi, in questo momento greca, nella crisi economica in Grecia, e l'abbiamo messa fra virgolette, perché noi, cioè in effetti secondo noi la crisi non è reale, cioè è reale nella vita delle persone perché ha toccato direttamente le persone e la vita materiale della gente, però non è reale in quanto è una crisi provocata. Le multinazionali hanno spinto per molto tempo la Grecia a indebitarsi, con un meccanismo che in effetti viene usato nei paesi da assoggettare economicamente, e soprattutto nei paesi del terzo mondo, proprio un meccanismo che viene usato nei paesi del terzo mondo. E così il debito diventa un'arma di ricatto, poi vengono avanzate quindi pretese di accaparrarsi bene le ricchezze di quel paese, ed è un sistema oliato, e in cui ora vengono coinvolti anche i paesi occidentali, chiamiamoli così, più deboli. Però c'è un'altra osservazione che ci viene proprio spontanea, è che la questione greca è, prima ancora che una questione economica, è una questione geopolitica. Cioè la Germania e i paesi europei sono quelli che ci rimettono economicamente, ci rimetterebbero economicamente da un'uscita della Grecia dall'euro. Però gli USA, gli Stati Uniti, non permetteranno mai che la Grecia esca dalla sfera di influenza atlantica, a nessun titolo e a nessun costo. Sarebbero disposti a fare tutto quello che sono capaci di fare, tutto quello che hanno dimostrato in svariatissime occasioni di saper fare. Non sappiamo che strada sceglierebbero, ma sicuramente sarebbe una strada devastante, perché gli USA non permetterebbero assolutamente mai l'uscita della Grecia dalla loro sfera di influenza. Allo stesso tempo c'è l'Europa, che non si può permettere trasgressioni o autonomie rispetto agli Stati USA, e perché quello europeo in effetti è un imperialismo. Si muove l'Europa come un centro imperialista, ma è un imperialismo regionale ed è subalterno all'imperialismo degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti si pongono come stato del capitale, avanzano pretese egemoniche come stato del capitale e riconoscono soltanto potenze regionali, solo vassalli, forse neanche alleati, solo vassalli. Allora, noi non sappiamo, forse Tsipras avrebbe potuto dichiarare default, uscire dall'euro, però contemporaneamente avrebbe dovuto correre all'ambasciata americana, doveva correre all'ambasciata americana e rassicurare riguardo alla permanenza della Grecia nella NATO. Certo, noi la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, non sappiamo veramente com'è andata, non sappiamo se di cosa sia stato minacciato, sia stata minacciata la Grecia. Perché, per esempio, il ricordo di quello che è successo in Grecia dopo la Seconda Guerra Mondiale è fresco e tragico. Mai gli USA avrebbero permesso alla resistenza greca di portare il paese nella sfera di influenza dell'URSS, o comunque mai avrebbero permesso alla Grecia di decidere del proprio destino. Però c'è una cosa che è venuta fuori in maniera evidente, eclatante, prepotente da quello che sta succedendo in Grecia. Cioè la Grecia ha strappato tutti i veli che ancora potevano coprire il cosiddetto gioco democratico. Il re in effetti è nudo, la gente, le persone, i popoli non contano niente, il voto non conta niente. La cosiddetta democrazia è un meccanismo che viene dato per buono solo finché il risultato è quello che il potere si aspetta, altrimenti viene buttato tutto a mare. L'abbiamo visto anche qui da noi, nel nostro piccolo, con il referendum sull'acqua pubblica, sul finanziamento pubblico dei partiti, nel senso che basta cambiare nome, cambiare legge e tutto viene inficiato. No? Una volta, fino a non molto tempo fa, il voto poteva avere un senso, seppure limitato, sempre all'interno di questo gioco democratico, finché il sistema aveva abbracciato l'ideologia keynesiana, cioè era una scelta dettata soprattutto dall'immaginario di possibili rivoluzioni, che prima ancora questo immaginario fosse reale, però era un immaginario che aleggiava, per cui esisteva uno spazio di contrattazione che forniva alla gente la parvenza di poter in qualche modo contare. Invece, che è successo con la scelta neoliberista? Si sono aperti scenari completamente nuovi. Stiamo attraversando un momento di trasformazioni profondissime negli stessi assetti della borghesia, nei rapporti fra gli stati e le multinazionali, e gli Stati Uniti si stanno ponendo come stato del capitale, a scapito di tutte le altre situazioni che sono anche, seppure imperialiste, sono anch'esse imperialiste, siamo in una fase imperialista, però possono essere soltanto regionali. E poi sta nascendo un'iperborghesia transnazionale che sta proletarizzando vasti strati della stessa borghesia. La nuova configurazione mondiale prevede il declassamento dello Stato-nazione a territorio vassallo e i governi locali a governatori, per cui si tende al governo diretto dei potentati economici e la volontà popolare e il voto non solo non contano più, ma non hanno motivo di esistere. È un percorso che viene da lontano, perché da molto tempo è in atto il tentativo di privare di legittimità quelli che erano i pilastri dell'organizzazione statale borghese, così come era venuta fuori dalla rivoluzione francese, dalle rivoluzioni del 48, no? È stato attuato tutto questo cominciato togliendo l'immunità parlamentare, presentando i deputati come una casta, esautorando il Parlamento, mettendo al governo figure non elettive, no? E quello che è successo in Grecia di fatto è l'esplicitazione di tutto questo, cioè la volontà popolare non conta nulla, non contano i governi eletti, il governo viene esercitato direttamente dalle multinazionali e dai potentati economici. Di fatto è una configurazione di stampo nazista, perché al di là dei nomi è quello che conta è l'impostazione, la configurazione, le scelte, no? Perché è una configurazione di stampo nazista? Proprio per l'abolizione di tutti gli organismi di mediazione tra potere e popolazione, cioè non esistono più cittadini, possono esistere soltanto i sudditi. Vi leggiamo alcuni stralci di un articolo di Lucia Pradella che è uscito su Sinistra in Rete, che è intitolato «C'è una logica in questa follia, crisi nell'Unione Europea e riassetto dell'industria mondiale». E in effetti lei apre dicendo che la crisi economica mondiale scoppiata nel 2007-2008 si sta abbattendo con particolare forza sull'Europa e la situazione greca ne è l'esempio più lampante. No? La crisi e i suoi effetti in Europa, compresa l'Europa ricca occidentale, hanno suscitato ampio dibattito, tanto sulle sue cause che sulle strategie da adottare in risposta. Uno dei limiti principali di questo dibattito è che spesso si è concentrato sulla crisi in Europa senza considerare in modo organico la sua dimensione strutturale e internazionale. Il punto è che questa non è una crisi europea, è una crisi internazionale del sistema capitalistico. Nonostante i vari segnali di ripresa, inoltre, questa crisi non è una parentesi temporanea che a un certo punto si chiuderà con il ritorno ai bei vecchi tempi andati. No, questa crisi manifesta una tendenza strutturale verso l'impoverimento e dipende da profonde dinamiche economiche e geopolitiche. Diciamo che noi diremmo di più che non è una crisi del sistema capitalistico, è una scelta del sistema capitalistico, cioè il sistema capitalistico nella sua fase monopolistica e quindi imperialista ha scelto il neoliberismo. Quindi è questa scelta che crea l'impoverimento e che non dipende da dinamiche economiche e geopolitiche, ma da un'ideologia, da una scelta ideologica di fondo. Dopodiché lei alla fine fa un riferimento preciso alle feroci misure di austerità imposte dalla Troica e dice che non sono assurde o irrazionali, non mirano tanto a ridurre il debito e la spesa pubblica in quanto tali, ma puntano a sostenere la competitività e la profittabilità del capitale, riducendo la spesa sociale e smantellando i sistemi di contrattazione nazionale. È per questo che l'Unione Europea sta intervenendo nella legislazione sociale degli Stati membri, soprattutto di quelli più indebitati, imponendo piani di riforma strutturale che molti paragonano, non senza qualche esagerazione, a quelli imposti al sud del mondo o all'est europeo. Ma anche nei paesi in apparente ripresa, le politiche di austerità stanno facendo crescere la precarietà e l'impoverimento dei lavoratori. A tutto questo si aggiunge un ulteriore generale inasprimento delle politiche contro gli immigrati e del razzismo di Stato. L'obiettivo complessivo dell'Unione Europea e dei vari governi è smantellare le forme esistenti di solidarietà sociale e di organizzazione sindacale, atomizzando e dividendo ancora di più la classe lavoratrice. Solo in questo modo, infatti, l'Unione Europea può mantenere la sua posizione nel gruppo degli Stati imperialisti. È per questo che la Troica si sta dimostrando così inflessibile con le richieste del governo Siriza e del popolo greco. per continuare indisturbati nel loro massacro sociale, per continuare indisturbati il capitale europeo e la Troica devono dare una lezione esemplare ai lavoratori della Grecia, colpevoli di aver alzato la testa e di aver detto no. Con loro la Troica vuole ammonire i lavoratori in tutta Europa, in particolare in un contesto di ripresa della conflittualità che dalla Spagna si sta allargando in qualche misura anche alla Germania. E come risponderanno i lavoratori nel resto dell'Europa? E questo non è altro che il neoliberismo, e in Italia è stato naturalizzato ed è portato avanti dal PD, tant'è vero che proprio oggi ci sono capitate sotto mano tutta una serie di, non sappiamo neanche da dove cominciare, no? Per esempio il PD taglia pesantemente la sanità pubblica, abbiamo preso un articolo qualsiasi perché ce ne sono tantissime, per esempio quello di InfoOut. Taglia la sanità, il governo prevede tagli per oltre 7 miliardi di euro al settore della sanità e la manovra è contenuta in un maxi emendamento al decreto sugli enti locali. Ciò che è stato annunciato lascia intendere che dietro lo slogan di una maggiore efficienza saranno in realtà mascherati tagli e diminuzione dei servizi offerti. Il Ministero compilerà una lista delle patologie che richiedono esami e visite necessari, tra virgolette, per le prestazioni mediche. Al di fuori di queste liste il paziente dovrà pagare di tasca propria. Inoltre, nel caso il medico prescriva un esame senza che questo sia necessario, fra virgolette, potrà incorrere in una decurtazione dello stipendio. È la colpevolizzazione diretta, no? E la presa di petto diretta dei singoli individui. Poi la Saipem licenzierà in 2 anni 8.800 persone. Sono tutte notizie passate oggi. 8.800 persone, che vuol dire che ci sono altrettante famiglie. Un'anziana di 77 anni a Torino è sotto sfratto, ma è l'ennesima, nel senso che noi come femministe sul blog siamo particolarmente attente alla terza età, perché è molto più in difesa, no? Soprattutto dopo un certo numero di anni, però c'è anche una vasta fascia ormai di lavoratori e lavoratrici espulse intorno ai 50 anni, Maria Baratto è un esempio classico, che si è suicidata perché non poteva vivere, come diceva lei, tutta la vita sull'orlo del baratro, no? Poi leggiamo che Varoufakis in Grecia è stato messo, cioè è stato accusato di tradimento perché aveva previsto, impostato un piano B per uscire dall'euro. Questo ci ha fatto riflettere molto, perché al di là dello specifico ci siamo accorte di come il neoliberismo usi il concetto di tradimento, cioè tutti quelli e tutte le forme e tutti i tentativi di uscita da questa società o comunque di sottrazione vengono tacciati come tradimento. Ne derivano allora, come conclusione di tutti questi spunti di riflessione che noi abbiamo buttato lì e che sono praticamente un po' la sintesi di quello che ci siamo dette, di quello di cui abbiamo parlato in questi mesi. Insomma, come sintesi di queste riflessioni abbiamo fatto una piccola analisi che riguarda il nostro specifico, no? E in particolare il rapporto che concerne noi e le istituzioni, proprio prendendo spunto dall'insegnamento greco e da quello che è successo in Grecia, anche se è chiaro che anche da quello che succede in Italia si deduce questo, però in Grecia è particolarmente eclatante. cioè rapportarsi alle istituzioni, pensare di poter ottenere qualche cosa con delle lotte che una volta potevamo definire settoriali, specifiche, come quelle anche per la 194 o dentro i consultori, tanto per parlare del nostro specifico o per l'approvazione di qualche legge, non ha più alcun senso. Lo spazio di contrattazione è chiuso e non l'abbiamo chiuso noi, però dobbiamo prendere atto che lo spazio di contrattazione è chiuso. Le lotte possono essere solamente e direttamente politiche, perché politico è l'attacco a tutto campo che subiamo nella vita. La sola strada che abbiamo è l'auto-organizzazione, la presa in carico diretta delle nostre esigenze e dei nostri desideri. È proprio... per finire, abbiamo trovato l'appello dell'Assemblea di lavoratori e disoccupati contro la continuazione della politica di svalutazione a Piazza Sintagma. E ha dei passaggi questo comunicato proprio in questo senso. Cioè dice: non rimarremo spettatori degli avvenimenti, non guarderemo le merci e i loro prezzi nelle vetrine, ci riapproprieremo di tutto ciò che ci appartiene. Sappiamo che persino la soddisfazione dei nostri bisogni più immediati ci spinge necessariamente all'appropriazione dei mezzi di produzione, distribuzione e comunicazione che noi e le precedenti generazioni di proletari abbiamo creato. Ci rivolgiamo a tutti i compagni e le compagne, tutte le persone che hanno lottato in modo autonomo negli anni precedenti e che continuano a lottare nei luoghi di lavoro, nei quartieri, contro la politica di svalutazione del recupero. In questo momento è improrogabile pensare e organizzare tutti insieme la nostra resistenza alle leggi applicative del nuovo memorandum, che saranno votate nei prossimi giorni nel Parlamento dal governo informale di unità nazionale, composto da Siriza, Greci indipendenti, neodemocratici, Grazia, PASOK, Potami, ma è ancora più improrogabile trovare modi per soddisfare immediatamente i nostri bisogni. E allora noi come femministe, come donne, come femministe, come compagne, dobbiamo renderci conto, dobbiamo assumerci direttamente la realizzazione dei nostri desideri, delle nostre esigenze, e la sola strada è l'auto-organizzazione. Vi lasciamo con queste riflessioni e a sentirci presto. Ciao a tutte e ciao a tutti. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy times. This is not really, this is not really happening.